da un quartiere disagiato che molti conoscono col nome di Begato. Passo le giornate inchiumato allo stop e nel tempo libero taccheggio l'ipercop. Gli stupefacenti non hanno più segreti, li frequento spesso più di Messner con lo Yeti. Prima di andare in centro mi faccio un caffè, 4 Montenegri, 2 sbagliate e 20 Ceres. C'è! C'ho il tribale sopra l'avambraccio, il puffo sulla spalla e Che Guevara sul polpaccio. E la suoneria con le bestemmie di Mosconi, ti saluto solo con la mano nei coglioni. Sono Pino di Begato, col vestino elaborato, il pianale con l'antenna, apri, piega, sgomma in penna. Mi riconosci dal bomber rovesciato, con le cartucce nel taschino, il cappellino girato, il motorino rubato, col sellino tagliato e l'orecchino con lo scudo blu cerchiato. Il mio appartamento è un buco di cemento e quando tira vento porta via l'arredamento. Se c'è movimento mi scatta il momento e mi fotto un bus per andare al monumento. Begato è il mio stato perché ci son nato, mi sento integrato perché mi ha allevato, ma chi lo ha creato fa come Pilato. Cagali un palazzo e se ne sbatte il... Sono Pino di Begato, col vestino elaborato, il pianale con l'antenna, apri, piega, sgomma in penna.